la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere 52 minuti primi, quindi si torna in diretta sugli 87,9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale. Dopo aver saltato praticamente un mese dai primi di marzo, alla fine di febbraio, non ricordiamo nemmeno, ritorniamo un po' acciaccati, ma con tanti suoni, tanta roba da mandare in onda, anche molte cose da dire, ma c'è una grande confusione anche così nella nostra mente. Le certezze sempre più sfumano nel dubbio. Tempi di guerra, ma come dicevamo proprio nell'ultima puntata, le guerre non sono mai finite. Talvolta hanno i riflettori mediatici puntati. Anche per motivi, diciamo, oggettivi, ecco, per ci siamo tornati, non era mai sparita la musica, ma dicevamo, anche per motivi che sono di importanza gerarchica, insomma, senz'altro esiziali, come dire, nell'attuale conflitto fra Russia e Ucraina. il modus operandi, diciamo, del confronto fra le grandi superpotenze, ovvero fra le multinazionali che sempre di più prendono il posto delle grandi aggregazioni statali o dei grandi imperi di un tempo. È comunque sempre un fare minaccioso, è un affrontarsi in maniera muscolare. La sigla se ne va e noi non vi abbiamo detto ancora che è cominciato il radioabbonamento di Radio Onda Rossa per questo 2022. Sul sito c'è un bel banner, ci andate sopra, mano a mano diremo tutto quanto, dai. Questa era londinese. I'll be quick then. I've pinched a van off work tonight. I didn't get an answer for you about the amp. I was seeing if I could just. Archie Ivan Marshall in arte King Cruel. Just drop that round. That's all right. Yeah, it's your old, Still making sense. E questa era la sua comet face. I saw pylon stretch to the east. Dicevamo, è partita la campagna di radioabbonamento del 2022 per Radio Onda Rossa. Oh, why our love becomes so ruined with this free. Come tutti gli anni, quindi diffondete la notizia, oltre che to walk with me. Andare a visitare il sito della radio, c'è un banner in alto www.ondarossa.info. Basta cliccarci dentro, sì, così ottengono tutte le informazioni del caso per poter sottoscrivere, per poter aderire alla campagna di radioabbonamento del 2022. Il sito Produzioni dal Basso è quello che, su cui ci appoggiamo per la raccolta dei fondi, dei soldi per il 2022 di Radio Onda Rossa. Ricordiamo sempre qual è, malgrado l'inflazione, il nostro proposito, cioè 30 per 1000, 30 euro per 1000 di voi. Ormai manco vi possiamo più dire il prezzo di due caffè, perché i caffè sono aumentati, e quindi è anche di meno. Comunque andate sul sito della radio, ci troverete, oltre ovviamente a le modalità per sottoscrivere il radioabbonamento, anche quelle che sono le produzioni in broadcast. E in podcast, attraverso Ascolta la diretta, e in podcast andando a selezionare nell'ampio repertorio delle registrazioni che sono andate in onda della radio, anche le nostre, per andare a riascoltare quello che è di saliente e interessante la radio ha proposto. Vi ricordiamo altresì le maniere per comunicare con la radio. E cioè i vari social, oppure la casella di posta elettronica ondarossa@ondarossa.info. A noi potete contattarci tramite la mail 25oclock@ondarossa.info, 25 scritto al numero, oclock@ondarossa.info. E infine, che dirvi, qui c'è il più vecchio dei mezzi di comunicazione, o uno dei più vecchi, ormai c'ha un secolo, 0649 1750, recapito telefonico della radio. Il telefono c'ha più di un secolo, ma il telefono della radio c'ha 45 anni praticamente, fra poco, fra poche settimane. E in mezzo a tutte queste cose, non vogliamo dire vecchie, dai, in mezzo a tutti questi reperti invece c'è una roba nuova nuova, c'è arrivata un paio di settimane fa, ancora il progetto La Morte, L'Amorte, o potremmo dire anche La Morte che ci perseguita. No, invece abbiamo enorme piacere a ricevere gli audio di Ciccio e soci, iperproduttivi peraltro, e questa qua nuova nuova si chiama Supernova, ce l'andiamo ad ascoltare. Lentissimo, ma ce la farà. Avete visto? Anzi, avete sentito? la tua pelle diamante, i tuoi occhi di ieri spalancati di tuffo, le tue braccia destino giraffa, la tua lingua candela di pietre che tagliano. Mostrami i tuoi piedi bianchi come i giorni della morte turchese, le parole di carta che inventi fredde, le tue orecchie preziose di vino caldo piramide. Mostrami il tuo seno tangente che mastichi la mattina di pugni, viole di campo di sana a colazione, viali di sterminio al pomeriggio tulipano. Mostrami il tuo cammino di sfinge tempesta, senza respiro nel tamigi dei cardi, scendendo senza guardare Venezia che affonda, la neve rossa del Golgota. Mostrami dove nascondi i tuoi pensieri palude, dove affoghi per le vie di Budapest le onde timide di Lanzarote, oltrepassando vulcani Mercurio. Mostrami il tuo respiro silente, dove gli assassini prendono il caffè freddo e le ferite Saturno sono una via d'uscita per entrarti dentro, supernova. Pentagramma e Telemaco sognante e Penelope ricamata, regina profonda dei deserti di coraggio. Scorda Cassiopea e la città infuocate dell'Asia Minore, le processioni, la striscia di Gaza, i mari capovolti, le infiorate, i canti stonati, la domenica delle palme. E poi scorda te stessa, novizio Medio Oriente del pensiero, io ti sarò vicino per non perdermi tra le stelle infuocate della notte papavero. Rock. avanti fare il culo. 23:19 minuti primi, le frequenze di Radio Onda Rossa, un po' così a tre cilindri, come si direbbe in gergo motoristico. D'altronde abbiamo qua davanti un mixer che pare una motocicletta, insomma, quindi tutto sommato non è così fuorviante l'idea. Sì, insomma, di solito vanno a stento i lettori di CD quando l'uso e l'abuso che ne facciamo tende a massacrarne le meccaniche. Invece in questo caso ci tardisce il digitale, io lo dicevo, di non fidarsi del digitale. Quindi abbiamo ascoltato in sequenza La Morte con Supernova, poi un omaggio che ci ha inviato Velester, rimasto folgorato dagli studi della radio quando venne, si presentò con il suo abbigliamento esuberante. I sandali, il chitone, la corazza, l'elmo e tutti strumentini all'avanguardia tecnologica, insomma. Gli è piaciuto l'ambiente, gli sono piaciuti via, gli è piaciuta via dei Volsci. E ha deciso di mandarci il jingle di 25 O'Clock, che però si è sentito a stento per i motivi di cui parlavo prima. E perciò, dai, aspettiamo che la rete interna della radio funzioni meglio, di modo che poi, insomma, ci riproviamo dopo a mandarlo, eh? Più tardi, se abbiamo tempo. Quindi tempi di guerra, tempi di grande crisi economica dettata dalla guerra, in cui guadagnano. Sì, c'è chi ci guadagna, sono i signori della guerra, anche detti. E però alle volte, e di solito, non sono così evidenti, ma si piegano, si nascondono dentro le pieghe della finanza, delle grandi borse, di chi specula, di chi si frega le mani per gli aumenti di bilancio per la difesa. Di chi aspetta che le acque del Polo Nord si ghiaccino, così da poter fare delle belle esercitazioni militari, dove prima, militari navali congiunte, dove prima c'erano i ghiacci perenni della calotta polare, e magari completare quegli accerchiamenti che altrimenti non sarebbero così completi. I signori della guerra sono coloro che la guerra non la fanno, ma la provocano. E poi ci stanno pure quelli che la guerra la fanno. E comunque in qualche modo ci rimettono sempre. Che siano povera gente quelli che ci rimettono sempre e sicuramente. Quelli che scappano, quelli che sono costretti a fare i soldati. E non hanno magari il coraggio di fare l'unica cosa che occorrebbe fare, cioè la diserzione, rifiutare la guerra. E su quello vale tutto, vale anche la codardia, tanto blasfema, no? E invece no, noi siamo di vigliacchi, sì. rispetto a cose che non sono nostre, che non ci appartengono. Va bene, dai. 06491750, quindi Animal Collective. Abbiamo ascoltato prima Car Keys, le chiavi della macchina, e invece andiamo su un personaggio di cui andremo a parlare poi nelle prossime puntate. Si chiama Mark Lanegan, è scomparso, ci ha lasciato un paio di mesi fa, forse anche meno. Ci riproponiamo di fare una rassegna più completa con lui, magari con qualche nostro collaboratore e animatore. Lo ricordiamo come voce di Screaming Trees, ma anche come voce solista o comunque come promotore di questo progetto che si chiama Mark Lanegan Band. Uscita del 2017, ci andiamo a ascoltare la terza traccia che, guarda caso, così per rimanere in tema, si chiama Emperor. Save me, my 23:32, quindi abbiamo ascoltato Mark Lanegan da Gargoyle, lavoro del 2017. Gargoyle sono le gargoglie o gargoglie, e cioè sono quei mostri, quelle strane figure disegnate e scolpite che vengono poste alla fine delle grondaie, delle gronde dove scola l'acqua. E quindi Emperor per Mark Lanegan Band. E poi i nostrani Wendy. Un abbraccio e un saluto a Lorenzo. Dicevamo un saluto a Lorenzo, ad Alessandro, a Paola, a Luca. It's all kind of bizarre. Some karma. Rispettivamente chitarra e voce. Ancora chitarra. Basso e batteria per il Wendy, che abbiamo visto più volte suonare per Radio Onda Rossa. E questa da In the Temple of Feedback era Rock Descends and Ruins a Radio Onda Rossa 25 o'clock, e ce ne andiamo di là a Boston, o alla periferia di Boston, a sentire loro, l'ultima uscita 2022, Smash Shit Up, un inno, ancora un inno dalle nostre frequenze, dai. Wanna be a rebel. Straight and narrow now, but this I must confess. 23:42 minuti primi, siamo tornati in onda, le frequenze di Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza. Vi ricordiamo che è partito il radioabbonamento per il 2022. Da nuova venerdì, pezzi da 5 in tasca, meglio così. c'è un bellissimo banner. Dicevi piano. Tra l'altro un'autoproduzione di Radio Onda Rossa, insomma, Sputarmelo in mano. E se senti la mia voce, dovresti stare in questa stanza adesso. Dicevamo che campeggia sul sito della radio, andateci sopra, cliccate e sostenete questa emittente. Vi rammentiamo quindi che abbiamo ascoltato Tropic Murphys, per chi non avesse avuto vita nuova, così l'attenzione in passato. Oh, così è troppo giovane, boh. Vabbè, comunque, gruppone dei giorni per essere cattivo, ne ha avuti parecchi. Che fa Celtic coi folk punk da Boston? Se senti il mio dolore, potresti salvarmi da tanti troppi anni. Questa è il 2021. Ma tu vuoi la mia sconfitta sul giornale? Ma tu vuoi la mia disfatta sul giornale? E si chiama Turn Up the Dial. Abbiamo ascoltato appunto Smash It Up. E invece sotto la nostra voce va di nuovo Vita Nuova, Pat, che tutto sommato poi insomma da quel mondo lì e a quel mondo lì, per quanto voglia sfuggire, ci appartiene. E invece ancora pronto sull'altro lettore di CD, nuova uscita del 2021, immaginiamo nei vari lockdown, nella impossibilità di fare concerti, eccetera, eccetera. I tre Melvins dell'attuale formazione, con un'aggiunta ogni tanto. E se senti la mia voce, rinchiusi a incidere dischi, hanno prodotto due dischi del 2019, di cui un doppio tutto acustico. Che andiamo ad ascoltare. Un'altra promessa che ci facciamo e vi facciamo è quella di, così, per anche così un po' masochistica, però agli amanti dei Melvins in qualche maniera il masochismo è una parte integrante, diciamo, dell'ascoltare e nel seguire i Melvins dopo tanti anni, da più di 30 anni. Andiamo ad ascoltare due tracce del secondo disco del lavoro tutto acustico dei Melvins. Eccole qua. We'll be right back. 23:55 minuti primi sulle frequenze di Radio Onda Rossa 06491750, il nostro recapito telefonico mentre suonano sotto i Melvins. Non l'abbiamo contato, penso che qualcuno l'abbia fatto per noi, però ci siamo dimenticati il numero delle tracce di questo folle, ancora una volta, prodotto per quanto riguarda la band di Washington, dello stato di Washington. Tutto in acustico, assolutamente tutto in acustico, anche il basso acustico e vabbè, e ci siamo ascoltati la settima e ottava traccia dal secondo disco di questo lavoro che si chiama Fire Legend Dog. Dicevamo, la settima e ottava traccia del secondo disco si chiama la settima è Honey Bucket, Bucket e We Are Doomed. Lavoro fatto di essenzialmente di rielaborazioni di vecchie elaborazioni in acustica, appunto, di vecchie produzioni dei Melvins, più al loro piacimento. E come di loro consuetudine ci stanno alcune cover. E fra i ringraziamenti, quello ai Rolling Stones, non c'è che dire. In quanto anche hanno prodotto una cover dei Rolling Stones in questo lavoro Five. Legend Dog. Guitti e Folletti. Quali sono i Melvins? Li lasciamo lì e andiamo però da un altro Guitto e Folletto che stavolta invece viene dalla California. Se non andiamo errati, Anche lui un altro di questi che è incapace di non suonare, di starsene un po' buono così a godersi magari i frutti di un lavoro appena fatto. Oltre alle produzioni soliste sono amplissime le sue collaborazioni, nonché anche il progetto con i Fuzz, ma sarebbe senz'altro così pretestuoso essere aggiornati su tutto quello che fa T.I. Seagal, perché di lui sia T.I. Seagal, anzi è più corretto dire. First Tast è il titolo di questo lavoro, che vi vorremmo dire di che anno è, ma non è riportato in copertina. Credo che anche questo sia 2021. E ha a che fare con il cane anche questa, I Worship Dog. E siamo assolutamente d'accordo, abbiamo anche noi il culto del cane. E quindi da First Tast di Seagal, I Worship a Dog, a Radio Onda Rossa 25 o'clock. Kevin Parker in arte Tame Impala. New Person, Same Old Mistake. dieci minuti quasi dopo la mezzanotte, ci prendiamo un po' di rotonda tranquillità. Ripubblicato per in un doppio Rise and Fall of Academic Drifting, ovviamente Giardini di Miro, quindi il disco. Originale e poi il remix The Academic Rise of Falling Drifters. Già avevamo ascoltato da queste frequenze in questo spazio. Questa è la traccia d'apertura del magnifico lavoro che ci ascoltiamo da capo, ovviamente. 25 o'clock Radio Onda Rossa. We'll be right back. Could Be at the State End, l'abbiamo già presentato, gli abbiamo dedicato praticamente una copertina, come dire, della ultima trasmissione che abbiamo proposto qui dagli studi della radio a 25 o'clock. Abbiamo qui la versione digitale che ormai è abbinata al vinile di quanto viene pubblicato un po' in tutte le etichette, nella fattispecie noi parliamo della Constellation. Ormai mitologica, come dire, etichetta indipendente di Montreal, che è, come dire, capeggiata dalle due band di punta e gemelle in qualche maniera, che sono Godspeed You, Black Emperor e Silvermont Zion, e poi tanti altri musicisti che abbiamo ascoltato negli anni anche in questo spazio. Nella fattispecie, questo disco del 2021 è composto di un vinile 12 pollici e un 10 pollici. Abbiamo ascoltato la prima traccia del lato A del 10 pollici. Che si chiama Fire in Static, Static Valley. Lasciamo quindi Godspeed You, Black Emperor ai prossimi ascolti. Questo lavoro lo ascolteremo tutto e speriamo anche in vinile qua in radio. Per andare invece al produttore italiano Calab, che in collaborazione con Amberra Ensemble e per l'etichetta Real World, storica, mitica etichetta di Peter Gabriel, ha prodotto, e con l'ausilio tra l'altro di Adriano Viterbini, e Tommaso Cappellato ha curato la produzione definitiva del disco. Un altro di quei lavori che ti rimane così. Nel cuore, possiamo dire, sì. O comunque nelle orecchie, è impossibile poi staccarsene. Dodici tracce da che si chiama appunto Calab Amberra Ensemble, Amberra. Altro prodotto da musicisti, appunto Amberra Ensemble saranno musicisti maliani, però profughi in un campo in Mauritania. Ci andiamo ad ascoltare la terza traccia, che si chiama Curfew. Anche se poi in realtà ci piacerebbe proprio ascoltarlo tutto e basta. Comunque, Radio Onda Rossa 25 o'clock, eccolo qua. Thank you. to arm a careless human being, keep him safe from harm. All the written wrongs, please keep the grenades safe from me. All in my veins, baby, I wanna seem insane. We got something new, something great, something you can't lose. Nothing's gonna change the way we are. Minuti dopo la mezzanotte, all in my veins. 25 o'clock, quasi sta per smettere. Però addirittura arrivano i trilli. Child that couldn't be learned, right on your arm, a careless human being. Keep them safe from harm. All the written wrongs, please keep the grenades safe from me. All in my veins, baby, I wanna seem insane. We got something new, something great, something you can't lose. Nothing's gonna change the way we are. Dance floor. 87,9 della modulazione di frequenza, 59 minuti dopo la mezzanotte. E quindi abbiamo proseguito dopo Curfew, Calab & Bear Ensemble, Coprifuoco, quindi, e niente. È così attuale, in questo stato perenne di emergenza. E poi vecchio lavoro del 1994, ripubblicato nel 20 anni dopo, nel 2014, per Underdog. Da cui abbiamo ascoltato Spumar, poi Mod Selector, i producer di Berlino, da cui abbiamo ascoltato Low Kicks, Pulse, Sola, Paradiso e Kapfer. E poi qua sopra un po' Melenzi, non c'è da dire, a parte la prima traccia non è un disco che assolutamente ci convince. Ritornati dopo tanto tempo Groove Armada, qui in stile un po' Sanremo, insomma, ce li risparmieremo volentieri. Però tant'è che stasera finiamo così, va. Saremo non tra l'altro quello attuale, quello di un po' di anni fa, insomma. Vabbè, questo è. Quindi vi salutiamo con questo. Vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, crediamo. Dovremmo guardare il calendario per sapere cosa faremo mercoledì prossimo. Chissà se riusciremo a esserci, ma contiamo di sì. In qualche forma, magari anche registrata da casa, oppure trasmessa in diretta da remoto. Qualcosa faremo. Il nostro saluto più importante va ovviamente a tutte e tutti coloro che ci ascoltano in condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, i centri di detenzione per migranti, perché sì, non tutti i migranti. Scappano dalle guerre firmate, quelle con Lustrini, ma ci stanno tante altre guerre, carestie. Crisi economiche, malgestioni, colonialismo, sfruttamento delle risorse, guerre tribali, così si dicono. E quindi vi lasciamo con la compagna automatica Sonata, che vi terrà compagnia con le sue selezioni musicali, con le sue repliche durante la notte fino a domattina alle 8, quando riprenderà la programmazione in diretta della radio, la rassegna stampa, la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa vera e propria, la rassegna stampa cittadini redazionali della mattina. Poi una pausa intorno all'ora di pranzo, si riprende alle 14 con Tutta Scena Cinema. Attica Blues invece va in onda alle 16, oltre al Black Music. Non so se domani c'è un ospite speciale, non ricordiamo se è proprio la puntata di domani. Alle 17 La Schiena del Soul riprende con le notizie e la musica da Latino America e molto altro. Riprende la rubrica di critica alimentare. già da domani per la Schiena del Sole alle 20:15 invece Tabula Rasa, la trasmissione sui libri di Onda Rossa. E infine alle 22 i Cuginetti di Apostasia che chiuderanno il palinsesto del giovedì. Bella a tutti e a tutti, noi ce ne andiamo sotto la luna comunista, ci sentiamo mercoledì prossimo, dai! Dreams under a communist moon.